13. Le carrozze rallentarono, i cavalli si misero al passo. L'ingresso ai giardini di Vauxhall era coreografico, colonne ioniche svettavano reggendo una sorta di pergolato. Philippe notò con sorpresa che oltre il cancello lo sguardo poteva allargarsi, pur se indirizzato dalle siepi e contenuto da filali d'alberi disposti ad arte. In alcuni punti l'orizzonte era visibile, la campagna si apriva. La mole cinerea della città era un lottatore che allentava la presa. Philippe provò a riempire i polmoni, ma l'aria sapeva ancora di fumo e carbone, di lezzo umano e animale. Peter scese dalla carrozza e stirò con le mani la giacca. L'entrata costava uno scellino. Esther camminava innanzi al padre, rispondeva ai sorrisi con un sorriso, si presentava secondo convenienza quando Warwick decideva fosse il caso di fermarsi, ma era concentrata sulla pena fisica del busto. Eppure, tutte le signore sembravano adattarvisi. Alcune avevano la vita così stretta che due mani avrebbero potuto cingerla, pollici e indici accostati, ma sembravano a proprio agio sotto la biacca, le gote rosse, i nei, le complesse acconciature. Esther avrebbe voluto tapparsi le orecchie. I discorsi erano noiosi, inutili. Le persone che le venivano presentate lo erano altrettanto. Pensò che era un vero peccato che la confidenza tra lei e Peter non fosse cresciuta nel corso del viaggio. La condizione di eroe e la compagnia degli adulti lo allontanavano senza rimedio. In mezzo alla folla, nei giardini di Vauxhall, Esther Johnson pensò ancora una volta alla madre. L'assenza era più profonda dell'oceano che avevano attraversato. Il padre si fermò. Altre presentazioni, ancora chiacchiere. Decifrò una manciata di parole. Canada, dannati Whig, guidare gli indiani. Dalla piattaforma al centro dei giardini giungeva la musica di un'orchestra. Tutti sembravano dimentichi di lei. Esther indietreggiò. Nessuno se ne accorse. Il gran diavolo era stanco di folla. Lanciò un'occhiata a Peter, assorto nella contemplazione dei musicisti. Decise di allontanarsi dal gruppo. Vauxhall sembrava abbastanza grande da concedere solitudine. Un passo dopo l'altro, Philippe giunse in vista della rotonda, un edificio circolare dalla mole solida. L'interno era illuminato da candeliere e specchi. Poca gente, intenta a osservare gli affreschi che decoravano le pareti. La musica giungeva lontana. Navi. La maggior parte dei dipinti trattava di navi. Gli inglesi erano ben consapevoli di essere grandi navigatori. Le scene erano il racconto ininterrotto di una vocazione. Una, in particolare, lo colpì. Il pittore l'aveva dipinta in modo mirabile. La cura dei particolari rendeva i personaggi vividi. Era una resa. Una nave era stata abbordata, la ciurma superstite radunata su un lato del ponte. Dall'altra parte, i vincitori, armi spianate. I volti degli sconfitti tradivano incertezza, terrore. La loro vita era nelle mani di un nemico ebbro di vittoria. L'uomo dei boschi osservò ogni particolare del dipinto. La scena faceva parte della sua esperienza. Si era trovato in entrambe le condizioni, prigioniero e cacciatore d'uomini. Si allontanò dal dipinto. Accanto a una statua, una figura nota. Esther uscì dall'ombra. Philippe la guardò, senza proferire parola. Avvertì la fatica del respiro, il disagio che la ragazzina doveva provare nei panni che le avevano imposto. Ebbe la visione di se stesso più giovane, vestito di tutto punto per le funzioni religiose. Non sapeva bene come rompere il silenzio, ma qualcosa lo spinse a farlo. «Signorina Johnson, come mai non siete con gli altri?» Le parole uscirono forzate. Philippe le udì risuonare come se provenissero da un luogo distante. «Mi annoiavo. Non mi lasciano solo un momento». La voce di Esther era chiara, anche se tradiva un certo imbarazzo. Philippe non ricordava che a quell'età la solitudine rivestisse un valore. Il silenzio tornò ad addensarsi. Decide che era compito suo disperderlo ancora una volta. «Avete veduto gli affreschi?» Sotto la maschera di biacca Esther provò a sorridere. «Navi, solo navi, come se non ne avessimo già viste abbastanza». Philippe annuì. Esther mutò espressione d'improvviso e fece un paio di passi in direzione dell'indiano. A voce bassa proseguì. «Non siete stanco, signor Lacroix, di indossare questi vestiti? Non vi sembra che tutti quanti siano rigidi come marionette?» La ragazzina aveva pronunciato le parole in fretta, senza tirare il fiato. Philippe la guardò negli occhi. «Non sono i vestiti, è l'anima». Esther parve stupita, come fosse la prima volta che un adulto le dava ragione. «Quando torneremo a casa, signor Lacroix?» «Non lo so», rispose Philippe. «Adesso usciamo di qui». Fuori, le note dell'orchestra li sfiorarono appena.